at the sand of what machine is called. I corse senza guardare. At the vega tutte giorna, correre ne va fatica. E lontana se ne va, da vita così, e da sti papà non morì, e a spietà che chiova, l'acqua d'un fondo va, tanto l'aria sa da cagnare. Quando chiava l'acqua d'un fondo va, tanto l'aria sa da cagnare. So fa scura e parla luna, la fiesta passa lì, per te ogni cosa può parlare, ma del resto ne parola e lo scuorne da mondrà, ma passando coccaruna tutta l'occhia se ne va. E aspetta che chiova, l'acqua d'un fondo va, tanto l'aria sa da cagnare. Ma poi quando chiova, l'acqua d'un fondo va, tanto l'aria sa da cagnare. E aspetta che chiova, l'acqua d'un fondo va, tanto l'aria sa da cagnare. Ma poi quando chiova, l'acqua d'un fondo va, tanto l'aria sa da cagnare.